suitcase of hope. A bundle of belongings isn't the only thing a refugee brings to his new country. Buon pomeriggio da Alessandro, benvenuti a Suitcase of Hope, la trasmissione che si propone di raccontarvi in modo diverso le migrazioni. Oggi è una giornata particolare e per i migranti potrebbe non essere una giornata parecchio fortunata. Stiamo facendo ovviamente riferimento alle elezioni americane, con la vittoria di Donald Trump e la sua posizione, diciamo, nei confronti dei migranti espressa in campagna elettorale. Posizione che chissà, magari potrebbe cambiare, noi ce lo auguriamo. Sta di fatto che questo 9 novembre verrà ricordato probabilmente, e già in parte lo è, come la giornata dei muri, di muri che crollano, come l'anniversario del crollo del muro di Berlino nel 1989, ma anche come muri invece che si ergono, e vediamo se appunto Donald Trump cercherà di ergere nuovi muri, in particolare quello annunciato al confine con il Messico, seppure era una buttata elettorale per avere voti dalla parte più conservatrice dell'elettorato. In ogni caso, noi in questa puntata cercheremo di così anche un po' esorcizzare le brutture del mondo, di raccontare storie di integrazione, progetti di integrazione. In particolare, dopo aver girato l'Italia, avervi segnalato diversi progetti che si svolgono appunto anche in altre zone del nostro stivale, torniamo a Bologna e oggi parleremo di due progetti di integrazione di migranti richiedenti asilo, ma non solo, anche categorie sociali deboli che appunto vengono incluse in modo particolare in uno di questi progetti che riguardano la nostra città. In particolare parleremo dell'Orto Africano, un progetto della cooperativa Arca di Noè, che gestisce anche diversi centri di accoglienza nel bolognese, non solo in città ma anche in provincia, e parleremo di Social Chic, una sartoria sociale a cui lavora, diciamo, l'associazione Mondo Donna, che anch'essa collabora per la gestione di alcuni centri di accoglienza, ma si occupa anche di altre tematiche che attengono all'integrazione delle persone svantaggiate. Tutto questo fra poco, dopo una pausa musicale. Cintura della, Torniamo insieme a Suitcase of Hope e iniziamo allora a entrare nel vivo di questa puntata che, come promesso, si occuperà di alcuni progetti di integrazione che riguardano la nostra città, Bologna. Cominciamo con un progetto che attiene all'agricoltura, in particolare all'orticoltura. Ce lo presenta Alessia Lizzadro nel suo servizio. Siamo al telefono con Valentina Tiecco, coordinatrice del progetto Orto Africano di Crespellano, un orto coltivato da profughi dello SPRAR. Allora, innanzitutto ti volevamo chiedere come e quando è nato questo progetto. Allora, il progetto è nato da delle riunioni di appartamento che abbiamo fatto qui al centro di accoglienza di Crespellano, dove abbiamo un grandissima area verde dietro il centro, dove con gli ospiti discutevamo un po' su come utilizzarla, e agli ospiti è venuta questa idea di farci appunto l'orto. Questo è successo quindi a settembre dell'anno scorso, del 2015. Poi l'orto ha preso avvio veramente a maggio del 2016, anche grazie ad una collaborazione fortunata che abbiamo avuto con Soul Food, che è la condotta Soul Food di Samoggia Ravino, che sta qui sul territorio, con cui siamo venuti in contatto e che ci ha permesso di avere i primi finanziamenti per mettere su delle piantine e cominciare insomma ad avviare questo orto. In un incontro che abbiamo avuto al COB di Monteveglio, dove era stato organizzato appunto dal COB di Monteveglio questo incontro tra noi, centro di accoglienza, e alcune associazioni del territorio che si occupano di vari temi, e tra cui c'era appunto anche Slow Food. Quello è stato un momento molto importante che ha attivato varie cose, tra cui appunto questa collaborazione, e quindi l'orto è stato avviato da alcuni ragazzi che hanno cominciato proprio autonomamente a zappare proprio la terra dietro casa, e niente, Slow Food ci ha permesso poi di continuarlo. Ho letto anche che ha contribuito l'azienda agricola Piazza Martino. Ci sono dei ragazzi qua, degli ospiti del centro, che stanno facendo un tirocinio ormai da vari mesi, da maggio, presso l'azienda Piazza Martino, che è questa azienda biologica che fa prodotti biologici, che sta proprio di fronte al nostro centro di accoglienza. Loro praticamente hanno preso punto dal lavoro che stanno facendo lì e hanno anche magari preso le prime piantine che magari la Piazza Martino buttava via, che non venivano utilizzate nelle loro terre. Loro le prendevano, le riportavano a casa e li piantavano qui al centro di accoglienza. È partita da lì, da una loro esperienza di tirocinio formativo in questa azienda agricola. Vengono coltivate a varietà particolari dei paesi di origine dei richiedenti asilo. Sì, loro hanno voluto piantare il gombo, si chiama anche okra, viene utilizzato in vari paesi dell'Africa occidentale. Sembra un peperoncino allungato verde, in realtà non è della stessa famiglia dei peperoncini, comunque è una cosa molto dolce che si utilizza nelle zuppe o anche nei soffritti, e loro la utilizzano moltissimo. Hanno piantato fin dall'inizio, verso maggio, e devo dire che è cresciuto benissimo. Cioè, evidentemente è un tipo di ortaggio che qui funziona molto bene. Con questo progetto avete anche contribuito a riqualificare il territorio. Il centro di accoglienza si trova in un edificio che è accanto alla fabbrica della Beghelli. È una zona abbastanza in disuso ormai da quando la fabbrica ha chiuso, quindi anche i terreni circostanti erano completamente abbandonati. Loro, facendo questo orto che è iniziato piccolo ma adesso si è veramente ingrandito molto, siamo arrivati sui 500 metri quadri di orto che viene costantemente coltivato dagli ospiti qua presenti. E quindi sì, c'è proprio anche il giardino dietro casa, perché è tutto un altro aspetto, perché appunto c'è questo orto, poi c'è una parte di questo giardino viene adibita a campetto da calcio, quindi proprio l'aspetto di questa zona è migliorato molto. Uno degli obiettivi era anche quello che i partecipanti divengano formatori degli ospiti delle altre strutture. Sì, anche con Slow Food l'idea è quella di far sì che questo orto diventi un'occasione di formazione sia per gli ospiti che lo stanno facendo, sia un'occasione per loro anche per portare formazione anche negli altri centri, perché comunque l'idea dell'orto è interessante e spesso viene in mente anche ad altri ospiti di altri centri, ma poi è difficile passare dall'idea alla concretizzazione. E devo dire che anche l'orto è un momento che gli ospiti hanno, formativo anche per loro, per una loro auto-organizzazione. Io ho visto che per esempio noi come operatori qua siamo intervenuti pochissimo, praticamente niente, loro si sono dati un'organizzazione interna, si sono suddivisi le aree, si sono suddivisi le modalità anche di raccolta, di distribuzione tra gli ospiti delle strutture, insomma non è solamente una formazione che ti dà la terra, che effettivamente comunque è importante, ma è anche un lavoro di gruppo, e per loro è questo anche importante, imparare a lavorare in gruppo, a cooperare, a coordinarsi. E quindi vorremmo che questa esperienza fosse portata anche in altre strutture dove hanno la stessa possibilità. Inoltre poi, appunto, oltre a questo, stiamo cercando di capire come fare formazione anche agli ospiti stessi, perché finora diciamo che loro sono andati avanti con le loro conoscenze, però vorremmo che queste conoscenze venissero un po' consolidate, quindi stiamo cercando di capire anche con Slow Food, ma anche con il CEFA, che è un ONG che diciamo ci ha conosciuto e con cui stiamo collaborando, stiamo cercando di capire come poter appunto fare una formazione anche agli ospiti impegnati in questo progetto. Slow Food Regione Emilia Romagna ci ha anche invitato a presentare questo progetto a Terra Madre, che è il Salone del Gusto di Torino, che è un evento che fanno ogni 2 anni, mi sembra, e che raccoglie tutte le comunità del cibo slow food da tutto il mondo. Quindi è un evento molto bello, particolare, importante, dove ci sono appunto le comunità del cibo dall'Africa, dall'Asia, da ogni realtà. E lì noi abbiamo avuto l'occasione di andare e di presentare appunto questo progetto. Siamo andati con 6 ospiti in rappresentanza insomma di tutto il centro, e abbiamo proiettato il video che abbiamo fatto sulla nostra storia di accoglienza in questo anno, e poi abbiamo appunto presentato il progetto del nostro orto africano. È stata un'occasione molto interessante, loro si sono resi conto dell'importanza di questo progetto anche e dell'importanza anche di presentarlo e di comunicarlo. Let's go. L'integrazione e l'inclusione non passa solo attraverso l'orticoltura, che sicuramente è un terreno comune, perché il cibo, insomma, riguarda tutte e tutti noi, ma anche il modo in cui ci vestiamo riguarda tutte e tutti. E quindi il secondo progetto riguarda una sartoria sociale. La nostra Martina Tamburini ce ne parla nella sua intervista. L'associazione Mondo Donna a Bologna ha dato vita al progetto Social Chic, una sartoria solidale che vede impegnate donne migranti. Per parlarne siamo in collegamento telefonico con Loretta Michelini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, per prima cosa, come è nato questo progetto? Il progetto Social Chic è nato all'interno del progetto Case Zanardi, che è un progetto del Comune di Bologna che ha messo a disposizione dei luoghi per progetti appunto specifici che riguardano gestiti da associazioni e da cooperative sociali. Noi abbiamo chiesto due spazi al Comune di Bologna quando abbiamo lavorato con in rete con gli altri colleghi delle altre associazioni e delle altre cooperative per appunto avviare questa sartoria solidale, perché all'interno dei centri d'accoglienza che noi gestiamo alcune nostre ospiti avevano dimostrato la capacità, ma una capacità a livello professionale, una capacità sartoriale. Avevamo poi diverse ditte tessili importanti che ci regalavano dei tessuti, quindi la combinazione, l'idea è stata semplice, abbiamo detto bene, proviamo a mettere in piedi una piccola attività imprenditoriale che permetta alle donne che ospitiamo non solo di essere appunto accolte e ospitate nei nostri centri, ma di prevedere per loro un percorso lavorativo di autonomia. Adesso sarò molto sintetica, ma il progetto alla fine è riuscito a mettere insieme, secondo noi, delle figure importanti, perché abbiamo una cassa integrata della provincia di Bologna, una signora che è una modellista professionale, che è cassa integrata e proviene da una paese della provincia di Bologna, la responsabile del progetto che è una stilista che proviene da una storia di violenza familiare, quindi era stata fuori dal mondo del lavoro per tanto tempo e con Social Chic ha ripreso, e poi abbiamo un ragazzo della Costa d'Avorio che all'interno dei nostri casi, centri di accoglienza straordinario, che è un sarto bravissimo che lavorava nel suo paese per ditte importantissime, e una sarta del Marocco che proviene da una nostra struttura d'accoglienza. Poi il progetto è tutto in costruzione, nel senso che ci stiamo lavorando tantissimo, devo dire che piace molto, perché è una sartoria importante dove le persone vengono, possono farsi produrre il capo scegliendo stoffe e modelli, possono provare l'abito, insomma, quindi è una bella specificità, insomma, un abito fatto su misura da persone esperte, professionalmente molto capaci, che però provengono da situazioni di disagio, quindi è un'opportunità di lavoro vera, questa è l'idea molto in sintesi. La presenza di donne migranti influenza anche il tipo di prodotti che vengono realizzati? Beh, sì, perché di donne e di uomini, abbiamo anche questo ragazzo molto bravo che è veramente un sarto modellista di altissimo livello. Influenza, certo, perché banalmente il sarto modellista ha una modalità diversa di costruire gli abiti, quindi anche questo, certo. Sì, c'è una contaminazione positiva, come in tutti gli incontri fra culture diverse, quindi anche naturalmente in questo, insomma, nella produzione di abiti, certo. Anche se noi ci rivolgiamo a tutti, quindi le persone che vengono sono delle clienti bolognesi fondamentalmente. Poi devo dire che però abbiamo negozi importanti che ci chiedono anche i prodotti, quindi è una cosa carina, insomma, va molto sostenuta, perché far funzionare una sartoria, come ben si può capire, in un momento di crisi non è assolutamente facile, però insomma ci crediamo tanto e stiamo spendendo tantissime energie, perché è un bel esempio di reinserimento sociale in un incontro tra persone in difficoltà, sia italiane che straniere. E in che modo esattamente questo progetto contribuisce all'integrazione di queste persone? Intanto fra di loro lavorano assieme, sono due ragazze italiane e un ragazzo e una donna straniera, quindi già questo è una bella integrazione. Le nostre clienti sono donne italiane e quindi è evidente che c'è, nel momento in cui una persona viene da noi, visita la sartoria, si fa cucire un vestito, a che fare con persone sia italiane che straniere, quindi c'è uno scambio molto naturale che non deve essere sostenuto da percorsi pensati e progettati appositamente, ma sta all'interno di una relazione naturale che fa incrociare persone provenienti da paesi e da culture diverse. Avete progetti futuri e pensate di sviluppare ulteriormente questo progetto? Sì, assolutamente, assolutamente. Si è appena costituita la cooperativa, quindi l'idea è di farlo diventare sempre più commerciale, quindi che funzioni sempre meglio e magari nel futuro riuscire ad assumere altre persone che hanno bisogno appunto di lavorare. Ci sono all'interno delle nostre strutture e anche all'interno delle strutture dei CAS, che sono dei centri di accoglienza straordinari che accolgono sia donne che uomini provenienti dall'emergenza sbarchi, ci sono molti sarti, anche molti uomini sarti, cioè persone che nei loro paesi gestivano delle sartorie, facevano i sarti con una grande professionalità. Quindi all'interno delle nostre strutture abbiamo delle professionalità importanti. Abbiamo costituito la cooperativa proprio per passare dall'accoglienza che gestivamo con l'associazione alla volontà delle ipotesi di percorsi di inserimento lavorativo, perché questa è la grande sfida del futuro, naturalmente. Quindi l'obiettivo è quello di lavorare sulla sartoria, abbiamo un catering etnico, abbiamo delle badanti, abbiamo donne delle pulizie, quindi abbiamo tante figure professionali che vogliamo inserire nel mondo del lavoro. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. He's so fine. Wish you were mine. That handsome boy over there. One with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make you mine. Is he heavy of all the girls? It's just a matter of time. He's a soft-spoken guy. La puntata di Suitcase of Hope termina qui, vi ricordo che sarà fra qualche minuto disponibile il podcast sul sito www.radiocittafujiko.it e noi ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 18, un buon proseguimento all'ascolto di Radio Città Fujiko.